come vuoi che vada, se nel letto non c'è più la tua mano gelata. Che scemo, quanto l'ho odiata ieri, per non parlare dei tuoi poveri piedi. E allora come va? E come vuoi che vada? In giro per l'Italia, serata dopo serata. Un cucciolo di uomo, senza un passato non può avere un futuro. E allora piango, rido, mi sveglio e mi addormento. Un giorno sono luce, l'altro sembro spento. Io vivo, vivo senza te, o meglio sopravvivo al dolore che c'è in me. Io vivo, vivo senza te, che strano ancora respiro quando ho provato a smettere. Sogno, mi soffermo un tramonto, nascondo i miei occhi e tra la gente mi confondo. Vivo, vivo senza te, o meglio sopravvivo al dolore che c'è in me. E sai, a volte rido quando penso a te, a te, al tuo sorriso, è ancora l'indelebile. E senza quello vivo, mi sveglio e sono vivo, cammino e sono vivo. E ogni volta che cado e mi rialzo e mi riscopro vivo, e senza il tuo sorriso, porta del paradiso. Va? Come vuoi che vada? Buh, come deve andare? Non si sa come deve andare. Questa era una nuova canzone anche, Sergio Sgrilli, Come va? Bellissima. E vi ricordo che siete all'interno di Bella Vita in compagnia di Rose e potete fare le vostre richieste musicali, le vostre canzoni preferite usando il vostro computer, perché no? Chattando con me tramite Facebook oppure andando a, nel sito www.crmpiradio.it e scrivere un messaggio o direttamente richiedere una canzone da questo sito. E poi inoltre potete fare alla vecchia maniera, chiamare lo 0921 92 32 92, lì vi risponderò io e parlerete direttamente con me, oppure potete mandare un messaggino al 335 56 37 251 e noi continuiamo ad ascoltare la bella musica, la musica di CRM in compagnia di Rosy. Bring it back. Think About You, Ti Penso. Bella questa canzone, abbiamo appena cominciato, abbiamo cominciato da poco e stiamo ascoltando tante tante bellissime canzoni. E noi questo vogliamo, vogliamo sempre ascoltare tanta musica. Ma niente paura perché arriveranno anche tante notizie. Ma continuiamo, Alexandra Stan. My number one, Alexandra Stan. That's right, yeah. Call Chris. Take it, let's go. You're one in a million. In my heart feeling love, you're so brilliant. Girl, I've missed your love and your feelings, hon. I never knew that you were my special one. But since you left me, I was the lonely one. Looking for that girl, one in a million, to dance with through the night while we chilling, hon. So I guess I finally found my billion. So brilliant, girl, I've missed your love and your feelings, hon. I never knew that you were my special one. But since you left me, I was the lonely one. Looking for that girl, one in a million, to dance with through the night while we chilling, hon. So I guess I finally found my billion. It seems like I've been lonely when you're gone. So be looking for that one in a million. Dance with me all night long and make my heart beating like I'm a one in a million. Senza nemmeno amarti, e vorrei tuoi stessi occhi stanchi e mi illudi e passi avanti, forse aspetto un altro po'. Perso tempo dietro a te, come quando un uomo cerca Dio, non lo trova e più impazzisce, io impazzisco se rimango ancora senza te. Vorrei odiarti un po', senza nemmeno fermo, tu che dici, non ci sei già più. Inegra Amaro, Londra brucia, questo è proprio il nuovo singolo di questo gruppo che è adesso in programmazione radiofonica. Questo brano è il quinto estratto dall'ultimo album di questa band salentina, capitanata, da come sapete benissimo, da Giuliano Sangiorgi. L'album si chiama Casa 69 ed è stato pubblicato, pensate un po', nel novembre del 2010 ed è stato certificato triplo disco di platino per le oltre 200.000 copie vendute. E sapete un'altra cosa? Che questa band, Inegra Amaro, il prossimo 5 febbraio si esibirà insieme a Jovanotti all'Auditorium Parco della Musica di Roma per il concerto del maestro Paolo Bonvino. E inoltre tornerà a girare l'Italia con Casa 69 Tour a partire dal 30 aprile. La prima tappa sarà a Genova e ovviamente noi siamo tutti pronti a seguire la loro vacanza canora, chiamiamola così, ecco. Ovviamente se dovessero fare un concerto qui ci andiamo tutti. And the kids just wanna be famous and be a big star, rather be known to be nameless. If I had my way, I'd draw it all up again. Can't take a loss, we mustered up a win. Mama was hurting and she couldn't spend a penny more. But why nobody have real dreams anymore? Forget the issues and worries, this is something I found. Sip on that optimistic juice when it's crumbling it down. Sempre in diretta su CRM Happy Radio all'interno di Bella Vita in compagnia di Rosy. Potete ascoltare tutte le canzoni che volete, tutte quelle che più amate, tutte quelle che più vi fanno sognare. Basta semplicemente andare al www.crmhappyradio.it e appunto richiedere la vostra canzone preferita, oppure chiamare al 335 5637 251 o 0921 92 32 92. Born to Die, Lana Del Rey. Don't fail me now. Take me to the finish line. All my heart it breaks every step that I take, but I'm open at the gates. They'll tell me that you're mine. Walking through the city streets, is it by mistake or design? I feel so alone on the Friday. If I tell you you're mine, it's like I told you, honey. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh, let's go get high. The road is long, okay. Lana Del Rey, Born to Die, bellissima canzone che le sta regalando a questa cantante 25enne un grandissimo successo. è questa cantante di New York che è schizzata in vetta alle classifiche iTunes di mezza Europa. Questo Born to Die è attualmente il primo in Francia, Regno Unito, Germania, Austria, Belgio, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Svizzera, mentre in Italia è secondo solo ad Adele. In inglese. E questi risultati raggiunti in pochissime ore nella chart digitale europea dimostrano che curiosità e attesa erano davvero alle stelle per questo singolo Born to Die, nonché anche album d'esordio di Lana Del Rey, lanciato dai singoli videogames Born to Die e Blue Jeans, i cui video sono cliccatissimi su YouTube. Il nome Lana Del Rey non è altro che un nome d'arte di Elizabeth Grant, che già aveva provato a sfondare nel mondo della musica come Lizzy Grant, pseudonimo con cui nel 2009 ha pubblicato un EP di scarso successo. A quanto pare le cose sono destinate poi a cambiare con questo nuovo progetto discografico prodotto da Emile, Justin Parker e Robopop per la Interscope, che è la stessa etichetta di Lady Gaga, quindi non so se mi spiego. E dichiara la cantante che queste canzoni che ha scritto sono un omaggio all'amore vero e a chi vive una vita ribelle. Ha dichiarato inoltre la chiacchierata artista newyorkese che si autodefinisce una versione gangster di Nancy Sinatra a proposito del suo nuovo album, che si presenta come un mix di pop orchestrale, retro, hip hop, elettronica e melodismo. Beh, è un gran bel mix di generi musicali che ovviamente è sempre bello ascoltarli, poi specialmente quando è una cantante brava come lei destinata ad avere tanto successo. E noi continuiamo. Passerà, anche oggi passerà, come fosse una lacrima che scivola. E dove andrà? Forse tra i segni di un sorriso che amaro è, ma passerà. Questo inverno cosa porterà? Un'altra primavera fragile che non sa come fiorire ancora nell'arco di un respiro e il suo odore. Passerà, è come aria, passerà quest'aria che in un fiato singhiozze già tra le scorie di un inevitabile passato che tenta sempre di confondere. Questo inverno cosa porterà? Un'altra primavera fragile che non sa come fiorire ancora nell'arco di un respiro e il suo odore. Questo canzone che si intitola What a Life. Life? Cos'è la vita? Bella vita, la vita è bella! Non peraltro il titolo di questo programma. Sì, sì, state ascoltando Bella Vita in compagnia di Rosy, qui in diretta su CRM Happy Radio, dove potete fare le vostre richieste musicali al sito, che è appunto crmhappyradio.it. È semplice, è facilissimo. E adesso è arrivato il momento di ascoltare un'altra canzone, una canzone in italiano, Laura e l'avvenire, Ivano Fossati. Laura, l'avvenire ci sfugge, tutto sta cambiando. Amore e lavoro, per esempio, tutto sta mancando. La parte buona della nostra vita è ancora là nei bar sulla strada, col futuro che ci illuminava. Sembravi spaventata al primo incontro, col tuo sorriso leggero. Sembravi più fragile mentre preparavi in fondo agli occhi quell'attentato che sono le lacrime al mio desiderio sincero. Laura, prendi il tuo coraggio e abbracciami. Abbracciami. Ora questo posto non fa più per noi. Questo è un deserto di democrazia. Oggi che la fabbrica chiude, tutti se ne andranno. Lasciamo libera la scena, anche noi, vieni. È così vero che non ha senso, è forse l'indifferenza dei giorni. Laura, prendi il tuo cappello e andiamo. Che di strada ne avremo da raccontare. In mezzo alla polvere di acido e d'argento. Amavo, ti amo e aggiungo, mite un sentimento. Dai, prendi anche il mio cappotto dalla sedia, che ce ne andiamo noi due. Ora questo posto non fa più per noi. Questo è un deserto della fantasia. Questo posto non fa più per noi. Every day and everything has felt this way. what I want when I feel like it. All I wanna do is lose control. You know that I'm a crazy bitch. I do what I want when I feel like it. All I wanna do is lose control. And that's why. Ringraziamo Cristina per aver richiesto questa canzone qui a CRM P-Radio. Era Avril Lavigne e la sua Smile. Bello, bello, bisogna sorridere sempre, giusto? Sì, sì. E noi continuiamo a sorridere ascoltando le belle canzoni qui in diretta su CRM all'interno di Bella Vita con Rosy. Quindi è arrivato il momento di Jerry Halliwell e la sua It's Raining Man. Jerry Halliwell, bellissima canzone di questa cantante che sappiamo tutti il suo passato, da dove viene, chi è. Eh sì, è proprio un'ex canterina delle Spice Girls. E infatti nuove voci di reunion in vista per le Spice Girls. Infatti a farle circolare ancora una volta Melanie B, che dopo aver indicato i prossimi Giochi Olimpici di Londra 2012 come possibile occasione per rivederla insieme sul palco con Melanie C, Emma Bunton, Victoria Adams Beckham e Jerry Halliwell, individua ora nel 60° anniversario del regno della regina Elisabetta l'ipotetica data per il ritorno della band girl britannica che ha spopolato nella metà degli anni 90. Quindi, stando a quello che dichiara Mel B ai microfoni dello show televisivo australiano Sunrise, le Spice Girls potrebbero, se non sono soltanto voci come al solito, potrebbero riunirsi in occasione delle celebrazioni per il giubileo di diamante della regina Elisabetta, che è in programma a Londra tra il 2 e il 5 giugno, e nel corso del quale dovrebbe esibirsi tra gli altri anche l'ex Beatles Paul McCartney. Quindi chissà, potendo, volendo, sperando per chi magari amava questo gruppo di queste ragazze, potrebbero tornare e farci sentire chissà che cosa. Siamo ovviamente curiosi di saperlo. E noi innanzitutto adesso continuiamo, oltre aspettando questa notizia, chissà se arriverà, di questo raduno, continuiamo con Gianna Nannini. Me ne andrò da te stasera, sei la mia catena, resto qui in galera. Salti addosso, perfetto. Kinda Girl You Are, questa è un'altra canzone qui trasmessa all'interno di Bella Vita in compagnia di me, in compagnia di Rosy. E come abbiamo detto all'inizio del programma, ormai siamo giunti alla fine di questo mese di gennaio, però se vi ricordate, solo pochi giorni fa era il giorno della memoria. E a proposito di questo giorno che poi è un giorno parecchio triste, dove si ricordano sempre quelle, si fanno vedere anche in TV quelle immagini triste dell'olocausto, di quella guerra brutta degli ebrei che purtroppo hanno sofferto. Il museo di Varsavia ha acquistato un modello costruito interamente con mattoncini Lego di un campo di concentramento nazista per una cifra di circa 65.000 euro da un collezionista privato norvegese. L'acquisto dell'opera ha suscitato diverse polemiche. Il modello era stato costruito nel 1996 da un artista polacco con dei pezzi donati dalla Lego, che però successivamente ha negato di avere saputo per cosa fossero destinati. I dirigenti sostenevano di aver accettato di sponsorizzare un'opera d'arte, ma che non erano loro noti i contenuti esatti. Infatti poi nel corso degli anni il modellino ha causato numerose polemiche, accusato di banalizzare e ridicolizzare l'olocausto, trasformandolo in una sorta di gioco. Però l'artista sostiene invece che l'opera ha un significato del tutto opposto e che infatti vuole rappresentare la semplicità del male che ha portato poi alla creazione dei veri campi di concentramento. Ogni volta per ogni questione si deve andare sempre contro o a pro, ci sono sempre due fasi, anche due gruppi di persone che danno la loro opinione, ed è giusto anche così d'altronde, sì, infatti. Ma noi continuiamo ad ascoltare la bella musica, è arrivato il momento di ascoltare una canzone italiana, bella, Francesco Renga e la sua Regina Triste. Poco dormirai. Francesco Renga, un uomo che è molto impegnativo e non ha paura delle debolezze che di solito si attribuiscono alle donne. Questo è quello che dice proprio sua moglie, Ambra Angiolini, che per ora ha cambiato look, è diventata più sbarazzina, una donna che ha dovuto lavorare sodo per raccogliere consensi. E ora dice che sono tutti dalla sua parte, anche appunto le donne. Lo è dimostrazione il fatto che una volta tagliati i suoi capelli, tutti mezza Brescia praticamente è corsa dal parrucchiere proprio per imitare un po' il suo taglio. E ovviamente però dichiara che tutto questo non è stato comunque molto facile. Adesso però può godersi un po' il successo, visto che è diventata una delle attrici italiane più importanti e più magari conosciute qui in Italia. Però ovviamente gli ostacoli, le difficoltà ci sono sempre. Ecco, l'unica cosa però che cerca sempre di fare è quella di stare vicino ai suoi due figli, Yolanda e Leonardo, proprio avuti da Francesco Renga. E infatti dichiara che percepiscono la sua fragilità e la accolgono con naturalezza. Però lei fa tutto per tornare a casa da loro, macinando chilometri su chilometri in autostrada con la sua auto, quell'auto che è diventata praticamente un secondo rifugio. E già, infatti, è vero, ogni volta chi è disposto a viaggiare deve far sì che la sua auto possa essere davvero comoda. E a proposito di comodità, noi stiamo belli comodi ad ascoltare ancora tante belle canzoni qui in diretta su CRM Happy Radio. I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stop. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you'll see. Cos'è? Dammi una definizione. chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Sbatterci contro è inevitabile. Sta capitando proprio a me. Si dice amore se tutto prende, ma non ti importa perché tanto lo sai che è inevitabile. Ed è successo anche a me, come a te. Inevitabile, anche se ti chiudi dentro. Nascondersi non serve, è questione sai di tempo. Ci sorprende prima o poi. Prima o poi. Questo è l'amore che fa cambiare in ogni parte di te. Finirci dentro. Esigenza, forse la risposta è tutta qui. Tutta qui. Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Sbatterci contro è inevitabile. Sta di Giorgia, cantata insieme a Eros Ramazzotti, richiesta effettuata da parte di Jerry, la mia cara collega che salutiamo ovviamente, qui su chat mi ha scritto e lo ha accontentata. Ciao Jerry, e noi continuiamo con la musica. She gets too hungry for dinner at eight. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. I love the free. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damn. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lake. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass. under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh no. I'm all alone when I lower my veil. That's why the lady is a tramp. Go. So, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp, cantata da Lady Gaga. The lady, a proposito di lady, particolare signore, la 91enne Bernice Bates è entrata nel Guinness dei primati come insegnante di yoga più anziana del mondo. La donna di St. Petersburg in Florida pratica yoga dal 1960 e l'attività l'ha aiutata a rimanere in ottima forma fino a quest'età. La donna ci tiene a dividere il merito però con i suoi ragazzi, per così dire. La classe infatti è composta da sessantenni e settantenni a cui fa da insegnante ed è veramente uno sforzo comune, infatti dichiara che se non ci fossero loro non avrebbe avuto questo riconoscimento. Però questa donna anziana ma arzilla allo stesso tempo, per quanto orgogliosa possa essere del suo record, spera che qualcuno lo superi molto presto, perché comunque è sicura che c'è qualcuno in qualche altra parte del mondo che a 100 anni possa batterla. E questo è anche un po' il suo modo di dire che non è, per quanto uno alla fine ha 80 anni, 100 anni, 90 anni, ciò non vuol dire che debba per forza essere considerato un vecchio. Beata lei che si mantiene così giovane in questo momento, che alla fine se ne sentono di tutti i colori, magari ragazzi che muoiono e roba varia, invece lei 90 anni e ce la fa. Ora! Dicono che è vero che quando si muore poi non ci si vede più. Dicono che è vero che ogni grande amore naufraga la sera davanti alla TV. Dicono che è vero che ad ogni speranza corrisponde stessa quantità di delusione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero, non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più ora. Dicono che è vero che quando si nasce sta già tutto scritto dentro ad uno schema. Dicono che è vero che c'è solo un modo per risolvere un problema. Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità di frustrazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più ora. Non c'è montagna più alta di quella che è una scalera. Non c'è scommessa più perfida di quella che non giocherò. Dicono che è vero che ogni sogno cuore diventerà cinico invecchiando. Dicono che è vero che noi siamo fermi e il panorama che si sta muovendo. Dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una mortificazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più ora. Non c'è montagna più alta di quella che è lo scalero. Non c'è scommessa più perfida di quella che non giocherò. Ora.

sono gli ultimi minuti in compagnia di Rosy all'interno di Bella Vita in diretta su CRM Piredio. Questa era Amy Winehouse e la sua Our Day Will Come. E proprio perché siamo quasi giunti al termine, ascoltiamo l'ultima canzone qui in diretta, una canzone italiana, è giusto che ogni tanto sentiamo l'italiano, Noemi. Sotto un temporale, io non dormo perché tu potresti arrivare. È un inferno, un amore così che non prende forma, non prende forma, e rimane sospeso tra me. È assurdo che io resti ancora solo ad aspettarti adesso. Continuerò a pensare che dovrei cancellarti. Ma invece poi ti chiamo con la scusa di parlare. L'ultima canzone in programma per oggi, Noemi, poi inventi il modo. E proprio siamo giunti al termine. Vi ricordo che lunedì 20 febbraio 2012 partirà il secondo corso di formazione radiofonica organizzato da CRM Piredio con il patrocinio del Comune di Cefalù. Chi volesse partecipare può ancora mandare il proprio curriculum a formazione@crmpiredio.it e ovviamente potete essere voi ragazzi che amate magari la radio, che desiderate diventare degli speaker o animatori o DJ, potete essere voi a fare questo corso. Sarete in tutto 10 e le selezioni sono aperte e ovviamente se avete bisogno di informazioni potete anche chiamare il 393 9787 111 oppure il 335 7517 930. E vi ricordo che questo corso inoltre è completamente gratuito. Adesso vi saluto, vi do l'appuntamento a dopodomani, giovedì, alla stessa ora, alle 15 circa, e vi lascio in compagnia di Robby con la sua On The Road. Ciao!